Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Finalmente, benvenuti. Saluto subito Alberto Pellai che è qua in studio con me. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. In regia Roberto Scaltritti, in assistenza Giorgio De Luca. Alberto, oggi un tema che sono certa farà discutere molto i nostri ascoltatori, quindi a scatola chiusa io vi consiglio di prenotarvi all'824 0024. I messaggi come sempre 349 238 6666. Andiamo subito alla lettera, Alberto? Sì. O vuoi anticipare con qualche parola? No, io direi che la lettera parla da sola. Lettera e poi torniamo insieme. Sono papà di un ragazzo di 16 anni. Sono rimasto molto colpito dalla notizia che Omar, il ragazzo che insieme a Erika fu responsabile della strage di Novi Ligure, ha già la possibilità di vivere fuori dal carcere e di pensare di avere una vita normale. Da una parte mi rendo conto che i figli adolescenti fanno molte stupidaggini, a volte anche gravi, e non è il caso che tutta la loro vita serva ad espiare un peccato di gioventù. Dall'altra, però, penso al messaggio che arriva a tutti i nostri figli adolescenti. Non importa ciò che fai quando sei giovane, tanto in fretta potrai tornare indisturbato alla tua vita di sempre. E questo mi pare gravissimo. Ma siamo certi che Omar, dopo soli 9 anni dalla strage di Novi Ligure, sia davvero un uomo nuovo, non più pericoloso per la società, e soprattutto che sia davvero pentito per il tremendo reato di cui è stato responsabile. Bene, l'avete sentito, il tema è stato dibattuto sui media, adesso stemperate le polemiche, i toni accesi, con calma e consapevolezza vogliamo rilanciarlo anche noi. Voi come genitori cosa pensate? Davvero credete che questa scarcerazione costituisca un cattivo esempio per i nostri figli? 824 0024, vogliamo subito presentare però l'ospite di oggi, è Don Claudio Burgio. Buongiorno Don Claudio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Autore di un libro appena uscito intitolato Non esistono ragazzi cattive, esperienze educative di un prete al Beccaria di Milano. Intanto grazie per essere qui. Grazie a voi. Alberto. Sì, io credo che lei, Don Claudio, sia proprio la persona giusta che può aiutarci a capire i molti dubbi, dilemmi che sono presenti anche nella lettera del nostro papà. Intanto, proprio per cominciare, lei cosa risponderebbe a un papà che si interroga se la scarcerazione di Omar a circa 10 anni dall'avvenuto delitto sia diseducativa per tutti gli altri adolescenti che la vengono a sapere? Sì, la trovo una lettera molto equilibrata, una lettera che giustamente sollecita una riflessione molto più ampia. È chiaro, chi come me, come prete, vive accanto a questi ragazzi all'interno del carcere Beccaria, chiaramente deve innanzitutto, in una parola greca, fare epoché, cioè sospendere il giudizio. Non è compito mio come prete quello di dare un giudizio su questi avvenimenti e su questi ragazzi. È una riflessione sincera, credo, questa. Sono i dubbi che ci portiamo dietro un po' tutti. Non credo che però i ragazzi, diciamo, i figli di oggi abbiano, diciamo, chissà quali difficoltà a pensare che dopo quasi 10 anni uno possa anche riprendersi una vita, rifarsi una vita, perché lo stile della giustizia minorile non è uno stile punitivo, questo va detto subito. L'accento all'educazione è principale, per cui dopo 9 anni non è compito mio, io non ho seguito Omar, penso ci sia stato però un cammino. Se i giudici hanno ritenuto di poter mettere in libertà questo ragazzo è perché comunque hanno constatato un cammino che è innanzitutto rielaborazione del proprio reato, quindi dei propri vissuti. Sicuramente ci sarà stato un momento nel quale Questi giudici hanno intuito e capito che Omar sinceramente si è interrogato e ha compreso il reato che ha commesso gravissimo. E poi c'è tutto un cammino, un percorso educativo di riabilitazione sociale che certamente è iniziato in carcere, Ferrante a Porti, sta continuando nel carcere dei maggiorenni e poi adesso continuerà nelle attività comunque di riabilitazione sociale che sono previste nel suo percorso. Per cui credo sia una lettera equilibrata, ma nello stesso tempo dobbiamo anche capire che un carcere non è mai un luogo di educazione in senso proprio, per cui è giusto a mio giudizio, se ci sono le condizioni, dare la possibilità a Omar di impegnarsi per una vita nuova. Don Claudio, scusa, tu da quanto tempo lavori al Beccaria? Perché hai scelto? Cosa ti ha spinto? Sono soltanto 5 anni che sono al Beccaria, quindi sono collaboratore di Don Gino Rigoldi. È stata una scelta del mio vescovo, il Cardinal Tettamanzi mi ha così chiesto di accompagnare, di collaborare con Don Gino, anche perché io già da 10 anni vivo a contatto con adolescenti nelle comunità Kairos, che sono le comunità nelle quali vivo anche, per cui un po' me ne intendevo di situazioni di disagio giovanile e quindi mi è stato chiesto questo. Senti, io volevo proprio, ti volevo chiedere questo, perché come sono cambiati i ragazzi? Tu dici non esistono ragazzi cattivi, quelli che magari dalla società vengono considerati tali, anche dalle famiglie quando disattendono le loro aspettative, o insomma il mio figlio mi dà tanti problemi, ci sono ragazzi che danno tanti problemi, che non si sa bene da che parte prendere. Come sono cambiati questi ragazzi? Credo che i ragazzi di oggi siano indubbiamente molto molto più fragili di quelli di ieri, anche solo della mia generazione. È una fragilità che soprattutto si riscontra nella loro capacità di scelta, di decisione. Sono ragazzi spesse volte inconsapevoli, incoscienti, non hanno addirittura una coscienza a volte. Per cui il compito educativo di noi adulti è quello di permettere loro di acquisire consapevolezza rispetto ai propri agiti e al proprio mondo. Molte volte la fragilità li spinge a fuggire la realtà che viene considerata sempre pericolosa, fonte di frustrazioni, per cui c'è questa un po' attesa da parte dei ragazzi di fuggire. Poi c'è chi lo fa attraverso le droghe, attraverso l'alcol, attraverso il divertimento e lo sballo a tutti i costi. C'è chi invece sconfina purtroppo anche nell'illegalità e anche in reati molto pesanti. Cominciano ad arrivare messaggi e alcuni sono davvero duri. Uno come Omar doveva restare in carcere a vita, altro che riabilitazione. E direi che forse queste sono poi frasi magari molto forti, che però rispecchiano la paura di molti genitori che tante volte leggono i giornali e dicono col cavolo che non esistono ragazzi cattivi. Cioè si leggono storie davvero terribili di cui gli adolescenti a volte sono stati protagonisti, e una mamma e un papà spesso hanno la percezione che si è perso il controllo, per cui vedono un intervento molto forte, sanzionatorio della giustizia come una modalità che oltre che riparativa è anche educativa, cioè se l'hai fatta la paghi e la devi pagare a lungo. Sì, io mi accorgo come un po' l'opinione pubblica abbia sempre bisogno del mostro in prima pagina, cioè della punizione esemplare. In fondo la mia riflessione è questa, cioè abbiamo bisogno un po' tutti del mostro, di riconoscere in questi ragazzi dei delinquenti, dei bulli, dei mostri, perché questo acquieta la coscienza, dire questo, finché è rinchiuso non ci appartiene. E invece forse questi ragazzi provocano in noi adulti una riflessione molto più seria, perché si arriva a questo tipo di vita, a questa realtà. Molte volte l'adulto tende a non mettersi in discussione e di conseguenza è preferibile avere a che fare con un mostro piuttosto che riconoscere che è nella normalità della vita, purtroppo, che questi atti si compiono. Anche perché noi ci rendiamo conto, se scaviamo un pochino più dentro di noi, che noi adulti tante volte non sappiamo fornire e dare degli esempi. La trasmissione di oggi è partita da una lettera di un papà indignato per il caso Omar, che insomma può dopo 9 anni di carcere riprendere in mano la sua vita e quindi giocarsi di nuovo una seconda opportunità. Don Claudio, è quello che succede a molti ragazzi del Beccaria? Certo. E come, e che cosa ne è poi di loro? Riescono poi a vivere una vita piena o devono comunque accontentarsi di situazioni intermedie? Quanto li segna anche per la società aver fatto questo Sono ragazzi soggiorno? Che comunque porteranno sempre dentro di sé una sofferenza. Questo bisogna saperlo e prenderne atto, perché il carcere comunque è un'esperienza sicuramente che ti mette in croce in ogni modo. Per cui tante volte la privazione della libertà non è solo l'unico castigo, è l'unica punizione, è peggio ancora dover ascoltare, dover condividere con altri ragazzi vissuti a volte veramente pieni di sofferenza, per cui è un'esperienza che ti porti dietro sempre. Quello che si cerca di fare con questi ragazzi è permettere loro di trovare una lettura possibile alla loro sofferenza, quindi riuscire a permettere loro di integrare i loro vissuti negativi con una realtà che non deve essere più avvertita come distruttiva, come di ostacolo alla loro libertà, al loro modo di essere. È un cammino molto difficile, non tutti ci riescono, bisogna essere molto schietti. Posso aggiungere un'osservazione rispetto ai molti adulti che scrivono, stanno mandando messaggi in cui dicono non è possibile dopo 9 anni, non si può far uscire, eccetera. Però noi stiamo ragionando sul tempo con la prospettiva di un adulto che ha già vissuto 40-50 anni della propria vita. Cioè dobbiamo anche entrare nella dimensione temporale della vita di un ragazzo che a 16 anni entra in un carcere, ci sta dentro quasi 10 anni e per lui sono più di un terzo della vita che ha vissuto fino a quel momento, cioè davvero una fetta molto molto significativa. E se la prima metà della sua vita è stata probabilmente così tribolata, cioè non ha costruito la scrittura e l'architrave su cui poi far funzionare bene il percorso di crescita e di evoluzione, quei 10 anni sono davvero un pezzo di riorganizzazione totale della vita che ha avuto a disposizione fino a quel momento, nella prospettiva del tempo di un ragazzo. Per cui dovremmo domandarci se qualcosa che succede nei primi 15 anni della nostra vita dovrà condizionare i restanti 60 o 70 che ci restano da vivere, o se c'è la possibilità di coltivare un progetto di speranza, perché altrimenti qua davvero chiudiamo. A questo punto diventa plausibile per qualcuno pensare alla pena di morte, come succede in altri stati, se noi non immaginiamo che c'è la possibilità di un riscatto. Don Claudio, se non esistono ragazzi cattivi vuol dire che esistono genitori incapaci? Tante volte si dà la colpa alla famiglia. Intanto ti propongo questa domanda, ma voglio salutare anche Mario da Genova e Fabio dalla provincia di Venezia che entrano nel nostro salotto del sabato. Mario, buongiorno. Buongiorno. Fabio, buongiorno. Signora. Mario. Senta, io premetto che non sono né cattivo né vendicativo, però a questa escalation di violenza bisogna mettere un freno, e il freno è solo quello che ci insegnavano i nostri padri, le nostre madri. Io mi ricordo che mia madre mi diceva: se porti a casa qualcosa che non è tua, ti taglio le mani. Cioè bisogna ritornare ad aver paura di essere puniti. Ecco. Io non sono perché ci sia una galera di 30 anni, 20 anni, come quando ora si fanno le leggi. Sì. Una galera equa, ma però che quando uno esce non voglia più rientrarci. Guardi, quando ero ragazzo io portavo il pane al carcere di Marassi. Ero ragazzino, portavo il pane al carcere di Marassi. Sì. Era mezzo vuoto e tutti quelli che uscivano non ci rientravano più, perché avevano provato un'esperienza brutta e la divulgavano poi fuori. Va bene, grazie, vi ringrazio di avermi ascoltato. Buongiorno. Grazie a lei, Mario. Andiamo a Fabio dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Sì, buongiorno. No, niente, intanto non mi trovo d'accordo con quello che mi ha preceduto, nel senso che ogni essere umano è diverso l'un dall'altro. Ma vorrei solo fare un mio pensiero, cioè questo: se i nostri genitori, adesso io ormai ho 42 anni e ho una bambina, però se i nostri genitori non sono stati educati ad educare, sì, cioè chi ha la responsabilità oggi e anche prima di insegnare ad educare, per poi procedere su un futuro, su delle generazioni, dove che sapranno educare? Poi diamo la possibilità a questi bambini questi ragazzi e anche giovanotti di sbagliare, però a monte chi ha insegnato a questi ragazzi? Credo che a volte, non per giustificarli, ma è chi? Cioè, se non abbiamo nessuno che ci ha insegnato ai nostri genitori, ai nostri nonni ad educare, come possiamo oggi noi avere delle basi, certo, per poter educare? Grazie Fabio. Mio... Io grazie. Vorrei condividere questa contributo, questa riflessione di Fabio insieme a Don Claudio e Alberto. Don Claudio, noi avevamo detto, ma insomma ci sono i cattivi genitori, di chi è stata la colpa allora? Sì, a parte che non, di solito non ragiono mai per colpe, nel senso che credo che anche i genitori non debbano sentirsi in colpa. Io trovo molti genitori al Beccaria anche davvero bravi, persone normalissime, famiglie normalissime. Al Beccaria ultimamente stanno entrando molti ragazzi italiani di famiglie normali, per cui non dobbiamo ragionare in termini di sensi di colpa. Certamente è vero, c'è un vuoto educativo, un'incapacità di dialogo, e dico questo rispondendo anche al primo ascoltatore che punizioni. Ormai l'asse delitto-castigo non regge più, cioè non si può educare sulla paura della punizione, non si può più educare sul controllo, per esempio. Non è sufficiente, è necessario sapere entrare in dialogo con questi ragazzi, con questa generazione, raccogliere anche il grido di sofferenza che inconsciamente questi ragazzi mandano, questo loro disorientamento, questa incapacità progettuale, per esempio, quali progetti reali possiamo noi offrire come adulti a questi ragazzi? Il lavoro, sappiamo tutti, è un dramma, cercarlo e trovarlo. E così altre esperienze, anche i programmi televisivi, è tutta una cultura che in qualche modo sollecita. Però, Don Claudio, questa lettura e questo approccio fa dire molte persone, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, beh, alla fine il carnefice diventa vittima e delle vittime reali se nessuno ne parla più. C'è questo io rischio. Rispondo che il reato, specialmente commesso da minorenni, è un segnale innanzitutto di fragilità, è un sintomo doloroso di un disagio, più che davvero qualcosa che connota. E molti ragazzi, per esempio, all'interno di Beccaria si identificano purtroppo col loro reato, per cui cominciano a parlare in termini di io sono un omicida, io sono uno spacciatore. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare all'interno di Beccaria è proprio aiutare questi ragazzi a riconoscersi come persone che hanno commesso sbagli, ma che sono e rimangono persone con tutte le possibilità quindi di ritrovare dentro di sé la forza per un pensiero nuovo. Certamente questo però non è colto dalla maggior parte dell'opinione pubblica, perché il reato, si sa, rimane qualcosa che stigmatizza la persona per sempre in qualche modo. E io credo che Omar, per esempio, Erika, tanti ragazzi che ho incontrato che hanno ucciso, comunque si porteranno per sempre dietro questa condanna, che innanzitutto è una condanna interiore. Alberto? Ritorno anche un po' su ciò che chiedeva Fabio, e secondo me però chi lavora con i genitori di ragazzi che si sono messi seriamente nei pasticci a volte si trova davanti magari dei genitori molto sprovveduti, a volte si trova davanti delle persone davvero sconcertate da ciò che ha fatto il figlio. Chiaramente c'è stato un passaggio che non ha funzionato nella relazione genitori-figli, e direi che a quel punto il reato di un figlio diventa però una fortissima possibilità per il nucleo familiare di ripercorrere a ritroso per poi poter guardare in avanti quello che è successo. A me colpisce nella storia di Erika e Omar il ruolo dei genitori dei ragazzi dopo il reato. Noi non abbiamo probabilmente notizie, non sappiamo bene cos'è successo prima, ma ciascuno dei genitori di questi ragazzi si è assunto le proprie responsabilità, ha continuato a fare il genitore nonostante la tragedia di cui i figli in qualche modo sono stati protagonisti, e in qualche modo sono stati corresponsabili a quel punto, cioè hanno costruito letteralmente un percorso. E questo Omar lo dice nella lettera che poi ha pubblicato da pochi giorni, ha realmente detto che lui ha dovuto fare un percorso e con lui l'hanno fatto i suoi genitori. Andiamo a Paola che ci chiama da Milano. Buongiorno Paola. Buongiorno. Niente, io non mi trovo d'accordo appunto con la scarcerazione di questo ragazzo, proprio per via dell'efferatezza del delitto, no? La premeditazione. E poi insomma avrebbe potuto anche cambiare idea di fronte alle suppliche di questo ragazzino, di questo anzi bambino, che implorava di non ucciderlo, ma nonostante questo la cosa è andata avanti. E quindi proprio Paola, di fronte a queste cose. Paola, provi a farci capire, secondo lei, quando un ragazzo come Omar potrebbe diventare scarcerabile, secondo la sua opinione? Mai oppure dopo moltissimi, moltissimi anni? 10 sono troppo pochi. Questo è difficile da dire. In questo momento io come mamma, come persona, mi sento di dire che secondo me non è giusto che a distanza di 9 anni questo ragazzino possa uscire. Proprio per il tipo, ecco, di delitto, no? Come però dire 30 o 40, chissà, anche l'assassino lì del Circeo, no? Quanti anni si è fatto, eppure non è bastato a cambiarlo, a ucciderlo nuovamente. Don Claudio, Paola, come molti di noi, chiacchierando anche con amici, colleghi, leggendo gli sms, ecco, questo è un pretesto a parlare della storia di Omar, perché proprio per misurare un pochino le nostre reazioni, i nostri giudizi, noi che facciamo parte, no, della società che sana, ecco. E Paola dice 9 anni mi sembrano pochi, 30, 40, quindi anche chi è contrario sa che ogni caso richiederebbe, no, un'analisi assolutamente diversa, dipende dal reato ma anche dipende dalla persona. Lei ha tante storie, no, di ragazzi che al Beccaria proprio si sono trasformati, magari alcuni no. Certo. Sì, non si può mai avere un metodo di giudizio univoco, insomma, sono storie molto diverse, situazioni molto diverse. Io non ho seguito Omar, per cui non ho possibilità di giudicare, di capire quanto realmente questo ragazzo sia cambiato. Certo, 9 anni, si parla di soli 9 anni, io invito a pensare che 9 anni è tutta la giovinezza. È un momento particolare, non credo che sia misurabile, quantificabile il tempo. Certamente una persona cresce nell'arco di tutta la vita. Adesso Omar non è che esce libero completamente, Omar affronterà comunque un percorso ancora riabilitativo all'interno di strutture della Caritas, mi pare, delle strutture che gli permetteranno attraverso un lavoro di sperimentarsi in una nuova realtà di vita. Non è facile, io credo, giudicare. Certamente tutti abbiamo bisogno un po' del mostro in prima pagina, proprio perché in questo modo ci sentiamo più sicuri. Però il tema della sicurezza io lo vedo in un altro modo. Ho una Don Claudio, ancora una domanda. Quando, in base alla sua esperienza, quando un ragazzo viene scarcerato, probabilmente lei ha l'intuizione, cioè questo esce e ce l'ha fatta, questo invece esce e è a rischio di nuovo. In base a che cosa lei valuta la differenza tra questi due modi di uscire da un carcere? Quanto un ragazzo è riuscito a prendere consapevolezza di quello che della sua storia, non solo del suo reato, ma proprio della sua storia di vita. Quanto un ragazzo è stato in grado di affrontare il dolore provocato, fra l'altro, e quindi quanto si è saputo mettere in discussione. Ci sono ragazzi che preferiscono dimenticare, ma la dimenticanza non è mai un cambiamento vero. Bisogna sapersi assumere le responsabilità di quel che si è fatto, allora, solo allora c'è la possibilità di un cambiamento reale. Andiamo nella provincia di Bergamo, ci chiama Mariangela. Buongiorno Mariangela. Salve, buongiorno. Siamo qua. Sì, io prima anzitutto ringrazio l'opportunità di esprimermi. Niente, io volevo dare uno spunto. Ho lavorato per 6 anni diciamo come insegnante di sostegno in una scuola media con ragazzini da 14-16 anni con un profilo, diciamo, che si assomiglia forse non a questo tipo di ragazzi che stiamo parlando. Sono contenta di sentire questo, della voce di Don Claudio che ci offre diciamo una prospettiva nuova, perché ovviamente questi ragazzi, quello che ci fanno confrontare soprattutto è con la scomodità delle emozioni, delle sensazioni, delle esperienze, che sicuramente gli adulti, quello che facciamo è metterle sotto il tappeto, sì, e far finta che è tutto a posto. Invece ci fanno confrontare, no? La questione forse chiave che volevo comunicare è che rispondono molto bene con la coerenza e col dialogo, no? Che diceva Don Claudio. E ho visto questo, ho visto dei cambiamenti su questi ragazzi, per cui insomma, io adesso sono diventata madre di due figlie, per cui questa paura di confrontarsi con persone che possono fare del male ai nostri figli, logicamente esiste, però il male è, insomma, esiste dappertutto. Però la questione più importante è che mi sembra che dobbiamo fare una consapevolezza, soprattutto gli adulti, certo, a dare una mano e a sapere che questi ragazzi non sono da soli, che hanno bisogno soprattutto di sostento, di appoggio e diciamo quello, se si sentono soli l'unica modo di sfuggita e di, diciamo, affermazione su loro stessi è questa via, diciamo, per dirlo di un modo molto semplice, della cattiveria, no? Certo. Però dietro la cattiveria c'è quello, c'è quella fragilità che a noi gli adulti ci fa molto scomodo, perché ci fa confrontare anche con la nostra fragilità. Io la ringrazio e darei la linea a Nino, che ci chiama da Milano. Buongiorno Nino. Buongiorno a tutti. No, io volevo semplicemente dire questo, che il carcere deve servire per riabilitare, non si può pensare di lasciare giovani ragazzi in carcere a fare che cosa, se non serve a riabilitare. E poi la cosa che mi ha sconcertato è questo: sentire tante persone, genitori estranei alla famiglia di Omar, di cui si parlava prima, sì, che sono per il carcere deve rimanere ancora, magari non sanno nulla di che cosa, del percorso che ha fatto questo giovane, mentre quelli che sono i familiari di Omar tutti hanno perdonato, sì, sono d'accordo, mi sembra di aver capito questo. Questa è una roba che non riesco proprio a capire. Anche a me mi tocca un po' strana. Don Claudio. Sì, devo dire, io ho incontrato soprattutto il papà di Erika al Beccaria e mi ha sempre stupito questa sua incredibile fermezza nell'andare a trovare in ogni occasione, a volte con la nonna. Erano incontri, ricordo, molto tesi a volte. Il papà usciva anche dal carcere a volte davvero turbato da questi incontri, però davvero quello che lui diceva era proprio questo: è l'unica parte della mia famiglia che mi è rimasta. E quindi questa nuova capacità di riprendersi in mano la responsabilità di questa figlia e con grande amorevolezza riuscire a instaurare un nuovo rapporto. Io credo che il fatto che non abbia abdicato al suo ruolo sia davvero un segnale per tutti, una speranza per tutti. È una persona che stimo molto. E Alberto, e tu? Io credo che di fronte a un grande disastro, ecco, che un figlio combina e che spesso lascia i genitori davvero senza parole, i genitori hanno due strade, cioè pensare che il loro figlio è diventato quel disastro lì e quindi identificarlo per sempre con l'errore che ha fatto, e a quel punto non c'è speranza, cioè si deve davvero interrompere la relazione, perché io sono genitore di un mostro. Altrimenti provare a recuperare nell'identità del figlio anche la possibilità di porre rimedio a quell'errore. Quindi a quel punto tuo figlio non è quel disastro, è colui che ha fatto un grande disastro, ma può essere anche qualcos'altro. E questo significa provare con molta fatica, con molto dolore, a progettare la speranza. Come diceva Don Claudio, parlo da genitore, secondo me il vero carcere è quello che hai dentro al cuore, cioè il dolore per ciò che hai fatto, e per un genitore sapere quello che ha fatto tuo figlio è la condanna per sempre. Ecco. Allora, io vorrei salutare e ringraziare Don Claudio Burgio. Io vi consiglio vivamente di leggervi questo libro, Non esistono ragazzi cattivi, perché è un libro che, come dice Alberto, accende pensieri. E io vorrei, con Alberto abbiamo pensato di salutarvi con, Alberto, un breve estratto. Sì, dallo scritto che Omar ha pubblicato su Panorama, ci dà anche il suo punto di vista. Non abbiamo, nessuno di noi ha in mano né una ricetta né la risposta giusta. Credo che possiamo, ascoltando queste parole, ognuno trovare una bussola dentro di noi per capire cosa è il bene e cosa è il male. Grazie per l'attenzione. Porterò sempre con me quello che ho fatto. Non dimenticherò mai. Ma riesco a convivere col passato e con quello che ho fatto, proprio perché ho elaborato a fondo com'ero e i miei errori. Ho sofferto e mi sono confrontato con me stesso guardandomi dentro. Inoltre, certi dolori e certe sofferenze sono riuscito a superarle non solo con il lavoro che ho fatto su di me, anche con l'aiuto e l'amore della mia famiglia, che non mi ha mai abbandonato e mi è sempre stata vicina in tutti questi anni. Sono convinto che nessuno potrà mai comprendere quello che io ho passato in questi anni e quello che mi porto dentro. Giudicare è troppo facile. Sforzarsi di capire e perdonare è troppo difficile. Con queste parole non mi sto giustificando, non ci sono giustificazioni. So però quello che la maggior parte della gente pensa e credo che bisogna trovarsi in certe situazioni per capire.